vento nel radiale, ma i radiali sono tutti affitti, praticamente la bobina che c'è all'interno, la volgimetro che c'è all'interno deve essere spezzata. Sto provando a farglielo esternamente, quando mi sembra che sono 2,75 metri di filo, 2,80 l'aria, un po' abbondante, e glielo vado a tirare sopra i radiali. Adesso sono a provare. Non so se funziona, prova se funziona così, non lo so. Perché sono subito, ho visto che nel cuore proprio del radiale, dentro la vena, c'è un filo di plastica avvolto da un sottile filo di rame, deve essere. E quello è tutto ossidato, quindi tutto massimo. Non è più, neanche a recuperare un pezzo per saldarlo, per quello che sto provando a farglielo esternamente. Non so se funziona, io quella che ho di scorta era già rifatta, però non l'ho fatta io, non l'ho rifatta, capito? Io sono boccolato il piantone dove attaccano i radiali, ho messo le boccole nuove, sempre d'alluminio perché era troppo largo, ho messo i radiali della misura sua, il sistema nuovo, va bene adesso. Cannette in alluminio, le ho inserite dentro da martello, le ho tirate dentro e poi dentro lì c'è un filo radiale in resina all'interno e poi sul canistro là, collego il carretto, lo collego, non so, con un avviso, in qualche modo lo collegherò con un occhiello, qualche cosa farò, e poi è da provare, dai. Invece l'antenna, non sono riuscito a separarla dal resto dell'antenna, a parte il piantone era separato, il resto dell'antenna non sono riuscito a muovere gli elementi, sono tutti inchiodati, poi era piena d'acqua pure, ho visto che in un punto usciva anche acqua, quindi sicuramente c'è qualche forellino anche nell'alluminio. Io ho la cattura dove sono le fascette, da lì è tra l'acqua, lì il sistema è appunto vulcanizzarla bene, perché altrimenti poi ti scende l'acqua giù al piede e ti va in corto. Con gli elementi vuole scaldato l'alluminio e poi piano piano con la prussiana piccolina, la pizza a pappagallo, muovo, rimorsa, piano piano, pulita poi bene, bella pulita, rimessa tutta la fascetta nuova e io ho staccata così una, non a casa, in officina da Roberto, l'abbiamo fatta, scaldata, devi stare attento se no la lo sciogli, scaldata e picchiata piano piano come trovo in plastica e poi cercare di smuoverla, perché poi è tutto osso, poi l'alluminio è particolare, non è come la ruggine, l'alluminio quando prende osso o che si ossida diventa una colla, capito? Sì, no, l'acqua è entrata perché era sotto una tettoia, era già spezzata dal piantone, diciamo, era già staccata, quindi sicuramente l'acqua entrava dal foro l'antenna ed si è accumulata per tutta l'antenna, questa è la fine della. E poi la punta, l'ultimo pezzo c'è un pezzo telescopico, non so se era così, io me la ricordavo funzionata l'ultimo pezzo, dove poi si attacca il bagnetto, dai. Sì, l'ultimo pezzo è funzionato, sì, non è telescopico, proprio quell'ultimo pezzo era un metro, che cos'è, quello è funzionato. E invece questa qua scorre, questo che scorre, infatti è strano, tu vuoi la tutta misurata a vedere se le misure ci rientrano, se no vuole anche modificarla, magari buff, magari un pezzo più strano, però è strano, scorre dentro, gli ultimi due elementi scorre uno dentro l'altro, il piccolo che sarà, forse non c'è un metro quello piccolino, scorre dentro quello più lungo da un metro e mezzo. Non so, aspetta un attimo, fra che ho visto qualcuno, forse vuole entrare avanti. No, non c'è uscito di radio, buonasera, ma non ho capito, non è chi sei e dove sei, sei tutto a scariche, tutto a scariche, proprio incomprensibile. Aspetta un attimo, fra. Ehi, fra, mi ha chiamato Anna, non so, prova comunque, vedi un po' se va bene. Stavando le misure qua, mi dice 6,85 metri deve essere da dove inizia, diciamo, la molla, da dove si interrompe, diciamo, l'isolamento, da che poi inizia di nuovo l'alluminio. Qui mi dice 6,85, ti ricordi qualcosa, no? Sì, è quella più o meno una misura, è quella. Sì, vabbè, poi il fatto che scorra, vabbè, non è niente, o la funziono, se no gli faccio, come si dice, col saghetto, e gli metto una fascetta, gli faccio un taglio doppio e gli metto una fascetta come le altre, dai, così è anche regolabile. Sì, beh, quello è così, mi ricordo, l'ultimo pezzo è funziona, che mi ricordo io, comunque prova se si radia bene, se funziona bene, e la lasci stare così, l'ho provata prima. Sì, ne sto facendo un pezzo ogni tanto, appena c'è un po' di tempo, però pensavo che fosse più semplice, perché se non la posso smontare, come la porto in macchina? Sarà quasi 5 metri quel pezzo lì, è un bel lungo. Se no l'avevo portata intera, l'avevo provata così. A me che non la provo lì, alle punti, in campo lì dove abita mio socio, vabbè, può provare anche lì, eh. Non si può provare, metti un barattino da un metro, attacchi il PL, ti porti un baracchino, con l'alimentatore, la provi. Capito, lo strumento, qualcosa dai, che ti indica, insomma, che sta funzionando. Poi magari mi telefoni, se sei lì, facciamo una prova. Sì, no, il primo test è vedere come sono stazionari, mamma mia. Se no, non dico che sia da buttare, ma per conservare qualche pezzo e basta, che serve. Se stazionari sono molto forte, se l'aspirare non regolano, c'è qualche errore. Se invece l'aspirare, tu con l'aspirare poi quello parti intorno ai 6 cm, dove c'è la fascetta dove aggancia l'aspirare, parte a 6 cm. Se vedi che sei troppo alto, solleva, capito? Ma se non regolano le stazionarie, vuol dire c'è qualche errore di fondo, fa. Allora ti governa parte di tutto. Aspirare il piantone, ma non lo buttare, può sempre servire a qualcuno. Sì, perché conta che io ho costruito tutto, la bobina interna, cioè quel cavetto interno che va al PL, quello tutto fatto nuovo, era tutto marcio, la trama è tutto marcito. Dai, vedremo, dai, sperando che migliori un po' il tempo, perché mi sa che è tutta la settimana, a parte qualche giorno, forse metà settimana, adesso è tutto pioggia. Guarda, domani è peggio di oggi, domani è temporale proprio. Mercoledì c'è un po' di calma ma è nuvoloso, e poi giovedì, venerdì, sabato e domenica sempre così, pioggia. Non so se ti ricordi dove abitano i miei, adesso mi sto rientrando da lì perché stavo sistemando l'impianto di riscaldamento, si forma sempre questa sacca d'aria in un termosifone, porca miseria, ogni tanto devo scendere a spurgarlo, e a rifare le pressioni, porca miseria, è che vanno fatte a freddo le pressioni, io le sto facendo a caldo. Non è delicato, quando gli faccio entrare pure acqua fredda crea bollicine d'ossigeno, casino, però non li posso neanche lasciare al freddo. Ma come così fanno? C'è qualche buco da qualche parte? Il buco l'abbiamo tappato, adesso la pressione sembra che la stia tenendo. Non lo so cosa accade, ma ha sempre dato problemi, mi ricordo anche quando c'erano gli altri radiatori, quelli in ghisa, in quel punto lì, sarebbe nel soggiorno, nello specifico, ha sempre dato problemi di aria, si accumula sempre aria. È un impianto fatto, un modello vecchio mio, praticamente ci sono due tubi andata e ritorno, e poi in giro a casa ci sono le chiamate che vanno ai termosifoni. Non è come il mio che ho i tubi interi che vanno dalla centralina fino a ogni radiatore, capito? È tutto diverso. Capito. Va bene. Cosa stavo dicendo? Lì sicuramente c'è qualche altro buchettino a qualche parte, a filaria. Entraria, quindi ti crea questo vuoto, sicuramente, controlla bene, che non c'è qualche altro buchettino, non lo so. Per quanto riguarda l'antenna, la prova la così fra attacchi, provi le stazionarie, se le stazionarie sono alte, vedi se la molla regola, se la molla non dà nessun segnale, c'è qualche errore di fondo, quindi bisogna vedere. Sì. Poi posso regolare anche oltre la molla, posso regolare anche, visto che lo stilo non è più puntonato, che scorre libero, posso regolare anche da lì, però ripeto, se non coincide a quelle misure è fuori di parecchio e vuol dire che c'è qualcosa che non va. Poi piccole regolazioni si possono sempre fare, è stata rifatta, si può anche ammettere, però grandi cose no. Aspetta un attimo, c'è una telefono. C'è qualcuno in ascolto su questo canale? Oh Giulio, carissimo. Oh, ciao Fra, aspetta. Sono andato bene allora, che ho trovato subito un amico speciale. Avanti Fra, buonasera. Buonasera anche a te, ben sentito. No, sono con Claudio, ma è al telefono, quindi tra un po' rientra anche lui. Riprendi Giulio. Ah, ok, ho capito, è di gente frequenza, non lo sapevo. Bene, bene, bene, allora, come va? Tutto bene? Le feste come sono andate? Vabbè, ancora ne abbiamo una piccola porzione da esaudire, per cui aspettiamo, ma l'Epifania a me non mi porta niente, dunque, non è così importante per me. Ma se ne vogliamo chiamare feste, comunque, dai, prendiamole per quello che sono. Abbiamo fatto compagnia comunque ai nostri genitori, dai, sia i miei che quelli di mia moglie. Un po' da una parte, un po' dall'altra, e sono passate le feste, mangiando senza esagerare, dai, senza. Grazie a Dio già mangiamo tutti i giorni. Sì, ormai la vita è quella, diciamo, in linea di massima le persone, diciamo, che se la cavano discretamente e non è che aspettano dei giorni di festa per mangiare qualcosina di più o qualcosina che desiderano da tempo, no, si mangia lo stesso, non è un problema. E beh, anche noi non è che abbiamo potuto fare niente di che, visto e considerato che c'è questo problema, sempre legato alla pandemia, allora per cui siamo dovuti rimanere a casa, così tutti i fratelli, ognuno a casa sua, senza riunirci per niente. Vabbè, pazienza, è andata così, speriamo bene per la prossima volta. Sì, è così anche noi, dai. A volte ne sono con un cognato, un po' con l'altro cognato, però sempre tra pochi, dai, massimo due famiglie, più o meno 4 più 3, 3 più 3, roba così, sempre nei limiti. Beh sì, in effetti è così, abbiamo dovuto sopportare quest'anno, vabbè comunque. Per andare peggio è meglio che sia andata così, dai, interessante adesso che si riesca a risolvere questo problema, o meglio che riescano a risolverlo, almeno con questi vaccini che hanno preparato e che stanno preparando, speriamo bene. Vabbè, poi per il resto tutto ok? Sì, stavo proprio sistemando anche pezzo della manta, va sempre, soltanto che anche i radiali sono tutti marci. Ho visto che dove ci sono quei fondelli in ottone, mancano quasi tutti, dal centro ho visto che fuoriesce un cavetto di tipo una lenza da 100 sembra, da 1 mm, e sicuramente attorno c'era del rame, un avvolgimento a spirale, spiralato, che adesso è tutto marcio. Adesso gliel'ho fatto esternamente e sono da provare, ho preso un po' di rame, del filo di rame da 2,80 m circa, e l'ho spiralato fino alla base, e poi sono a provare, a collegarli e provarla. Ok, ho capito, sì, con la bobina che c'è di coso, di cavo di avvolgimento, però quello isolante, quello è cavo isolato, per cui non so se ha utilizzato quello, ma suppongo di sì. E almeno la misura, la lunghezza di quella bobina non si è riuscito a prenderla, per farla uguale, della stessa lunghezza. Stavo leggendo su internet, praticamente dentro il radiale, dentro proprio nel cuore del radiale, c'è questo rame spiralato, e dovrebbe essere circa 1 metro, cioè 2,75 m, 2,80 m, dai, le ho fatte un pochettino più lunghe, poi si può sempre accorciare. Sì, io lo conosco bene, quella bobina la conosco benissimo, non c'è problema. Appunto, è quello che volevo dire, non è che sei riuscito a prendere la misura esattamente della stessa lunghezza, perché quello è subordinato anche alla lunghezza fisica dello stivo centrale, per cui, cioè, fa parte, oltre che serve per cortocircuitare l'antenna per la corrente elettrostatica, però fa parte anche della lunghezza fisica, perché è collegato allo silo centrale, proprio bello pieno a massa. A parte il discorso poi che è cortocircuitata con il resto del piantone, no? Perché, ma quello, ed è per quello appunto che ci vuole la bobina con quel cavo, con quel filo isolato, quello che serve per fare avvolgimenti in motori, eccetera, per intenderci, dai. Sì, no, ma io non sto parlando proprio del radiale, il radiali, quelli in retina, proprio i radiali di massa, del piano di massa. All'interno hanno del rame spiralato all'interno, avvolto a un come si chiama, una specie di lenza trasparente. Ah, ok, ho capito. Ah, perché sono quei radiali che hanno metà in resina allora e metà in alluminio. No, sono tutti in resina, però il cuore, sicuramente, nel cuore del radiale ci passa del rame, che è tutto spiralato, dovrebbe arrivare, per come ho letto, a quella misura lì, 2,75, dai. E ne ha, con tutti e quattro poi fa il piano di massa. Io adesso gliel'ho fatto in rame, però esterno, ho preso del filo di rame sottile, quello per telefonico, e gli ho creato una specie di spirale, però invece che interna, esterna, sicuramente prenderà un sacco di scariche. Ma non credo, quello lì intanto è tutto massa, quello è tutto massa, ma io penso che non c'era bisogno nemmeno di metterlo, di fare bobina, niente, lì bastava mettere il filo diretto, filo cavo elettrico, interessante salvaguardare bene i collegamenti in modo che poi non si uscidino, però si può recuperare così, se si tratta dei radiali, non credo che sia così critica la situazione. Assolutamente no, se per quello, se è tutto lì il discorso è recuperabile, allora l'antenna non c'è problema, o fra. Il problema è anche quello, piano piano sto andando avanti, ogni tanto ne esce una, le boccole le ho tutte rifatte, adesso poi ci infilo direttamente la resina all'interno della boccola, se vedo che va bene e poi vulcanizzo tutto o gli faccio una bella colata di questi gillanti, come si chiama? Quello che usano per le macchine, adesso non mi viene il nome, Sikaflex, quella roba lì, oppure diventa direttamente del vulcanizzante che già tiene bene. Sì, suppongo di sì, anche con l'altro vocalizzante, una volta che si asciuga diventa un unico corpo. Sì, beh certo. No, e quanto a quello già è fattibile, non è un problema. Se si tratta solo dei radiali, cioè il problema è magari lo stilo centrale, se quello è orientato allora non c'è problema nella maniera più assoluta. La massa te la puoi creare a tuo piacimento o fra, per cui perché vuoi cambiarla, cioè vuoi mettere quell'antenna lì, vuoi mettere quella autocostruita? No, non sa com'è, a volte non sa cosa fare e si mette a fare questi lavoretti qua. Il fatto che a me piace farli, no? E più che altro una curiosità, vedere se riesco a farla funzionare. Qua non la posso mettere perché mi sa che è troppo pesante. Non regge magari la staffa del filiferro per stendere, dai. Dove io ho attaccato la canna da pesca adesso. Credo che la natova sia parecchio più pesante. Eh beh sì, almeno il doppio del peso, certo. Di solito la mantova dovrebbe pesare intorno ai 4 kg, fra i 4 e i 4,5, per cui a differenza della canna pesca che è intorno ai 2 kg, 2 kg e mezzo, non di più. Certo, sì, beh. Vabbè, comunque, almeno è un lavoretto a cui dedicarti così nel tempo che ti avanza, diciamo. per cui va bene. No, sono belle cose da fare, dai, finché è possibile ristrutturare, perché no? Prima di buttarla una cosa, quando si può fare, poi quando si tratta di elettronica, roba di baracchino, ci fa anche piacere riuscire a sistemare il tutto, naturalmente nei limiti possibili, se no poi non ci si riesce, pazienza, non è la fine del mondo. Capo, vediamo un po' se Claudio è rientrato, Claudio? No, negativo, e infatti è proprio quello, è una lotta tra me e lei, se va, c'è una pazienza. la bobina è quella che dicevi tu, quella l'avevo già sistemata, non tanto la bobina interna, quella che corre diciamo sopra l'isolante in resina, no, quel tubo in resina. Si è rotta anche quella interna, c'è un cavetto che va dal PL all'interno e va verso poi il mollone, verso poi il mollone dove c'è quel bulloncino dove attacca la spirale, la molla, il mollone. Quello gliel'ho cambiato, però ho messo un cavo da 4, un cavetto, è un cavo normale, non avevo quei cavi di, che dici tu, quelli isolati. Ho messo un bel cavo da 4, Sì, no, quello va bene, non c'è problema, quello va bene così, tanto solo un filo di contatto che deve fare contatto con il mollone e con la bobina, che poi allo stesso tempo la bobina è in contatto diretto con lo stilo centrale, per cui non, quello sì, quello non è così critica la situazione, va benissimo così, fra. Bene, sono contento che ti stai dedicando un po' a Lubi, dai. Ripeto, sempre quando c'è qualche minuto, perché l'antenna, adesso l'antenna è alle punti, da mio suocero. Non sono riuscito neanche a dividerla, praticamente ho separato solo il piantone, che adesso che ce l'ho qua a casa, no? Il resto dell'antenna è tutta ossidata, è bloccata, è tutto un blocco, tranne l'ultimo pezzo che sarebbe dove c'era attaccato il ragnetto, quello addirittura è diventato telescopico, quello scorre all'interno, io me lo ricordavo puntonato, invece scorre. Ho provato a metterci un po' di spray, disossidante, ma niente da fare. Come dice Claudio, toccherà provare con un cannello, senza fonderla, provare scaldando la parte interna, dilatandola se riesco a muoverla un po', se no bisogna portarla così, intera, sarà minimo 5 metri quel pezzo lì. Ok, sono registrato Luca. Sì, certo, la portata intera è un po' disagevole, perché insomma ci vuole un cambio, e come fai? O quantomeno una motoretta, se uno non vuole dividerla ancora, cioè sezionarla nei vari tubi, ma questo è vero, bisognerebbe tentare di scaldarla, magari non so, poi forse qualche piccola sollecitazione fra i tubi, e suppongo che si possa, con un po' di fortuna si può anche riuscire ad mollarle. Invece una volta, questa è la stessa storia che aveva passato Graziano, lui però cosa ha fatto? Siccome non era riuscito a mollarlo, allora ha tagliato e dunque ha preso quei 10 centimetri più o meno che sono innestati dei tubi uno dentro l'altro. Ebbene, nonostante tutto l'ha rimontata ugualmente e ho visto che funziona anche bene l'antenna di Graziano, anche lui ce l'ha così, l'ha accorciata praticamente, ma comunque, sì vabbè, è fattibilissimo, vediamo un po' se Luca vuole entrare. Luca, avanti. Ehi, dai, giù, niente, sono entrato a salutare, che sto facendo della roba, comunque mi sto ascoltando dalle camere di mezzo, diciamo, dal laboratorio, sto facendo della cubicatura. Ciao, ci sentiamo dopo, non so se mi ascoltate bene. Sì, ti ascolto bene, ciao Luca. Sì, ancora non sono potuto venire, visto che sta sempre scendendo l'aria tutti i giorni, lui è un macello non per prendere quello a fare. Abbi pazienza un attimino, anzi sarei dovuto uscire oggi, anche perché dovevo andare a ritirare la pensione, invece ci ho rinunciato, ma sto sempre variando l'aria, no? Che sempre piovendo, sta cosa riesco a fare, non è il caso, ci andrò più in là, non è importante per me uscire subito, andare adesso, posso andarci anche a fine mese, posso andarci anche al prossimo mese, non è un problema. Vabbè, ti mando avanti Franco per salutarti, avanti Franco per Luca Flipper. Sì, arriva bene qua Luca, non siamo lontani sicuramente. La radio è molto amplificata, molti toni alti, non so se puoi regolare qualcosa. No, posso abbassare solo dalla radio, posso abbassare il mic gain, ecco, però non credo che cambino i toni. No, comunque va bene, sei fortissimo qua. Sì, sto usando una PLC 1000, capito? Vai giù. Ok, lui sta andando benissimo come segnale, sì, alla grande. Vabbè, i toni è sempre questione di microfono, non è un problema. Sì, no, sta andando benissimo il segnale, ma hai messo sulla di nuovo la verticale, perché il segnale è quello della verticale adesso, Luca. Sì, ho messo la verticale con la nuova bobina. KK, ho rifatto la verticale, dai. Ok, anch'io sto aspettando un tempo buono che mi voglio realizzare un dipolo per l'ascolto in HF, ma sta sempre piovendo, non è che posso salire a mettere, lo metto così in orizzontale in maniera proprio molto molto critica, ma per ascoltare, perché con questa Game Master è sorda nelle altre frequenze, per cui non riesco ad ascoltare un granché. Mentre invece quando avevo la Mantova Turbo, quello ascoltavo, e io a voglia si ascoltavo. E allora sto aspettando che migliori il tempo, figo ce l'ho, i connettori ce li ho, e dunque anche un pezzo di cavo RG58 per la discesa, in modo da poterlo collegare questo dipolo, solo per ascoltare, ovvio. Non mi interessa niente se poi ci possono essere stazionari, intanto non devo fare niente, io non devo trasmettere, voglio solo ascoltare, tutto io con Luca. Alle volte la notte mi piacerebbe riascoltare di nuovo gli 80 metri eccetera, capito? E allora però sto aspettando il tempo buono per buttare questo filo sul tetto, proprio per poter avere la possibilità di ascoltare anche altre frequenze. Vabbè, dai, avanti Franco. Arriverà nel tempo, non è paravano, non è per queste settimane, comunque prima o poi finirà di piovere. Sugli 80 metri cosa ascolti, Giulio? Radio Amatori, la notte, cioè dalla sera, da quest'ora in poi, diciamo, la gente trasmette anche in 80 metri tranquillamente, durante il giorno si può ascoltare in 40 metri, ma anche lì sono penalizzato, perché la canna pesca, la Game Master è in quella frequenza molto sorda, non poco, molto sorda. Tu pensa che il segnale che io sentivo prima, intorno ai 9:20 anche, mi arrivano Santiago 2, Santiago 1, 2, 3, 4, quando uno mette un po' di potenza, per cui è un'antenna per quelle frequenze lì molto sorda, non poco, molto. Va benissimo in 27, d'accordo, si può accordare benissimo in 10 e 12 metri, ma quelle sono frequenze che a me non mi interessano, però voglio ascoltare almeno in 40 e in 80 voglio ascoltare, anzi ti dirò di più, ascoltavo anche in 160 con la Mantova Turbo, ascoltavo anche lì, per dire, no? Mentre invece con questa come che non esistesse e 160 metri. Avanti Luca. Forse Luca sta cubicando, ha detto, sta lavorando. Nel senso che se conosci quella specie di lavoro, dai, la cubicatura. Sì, lo so, sta lavorando lui, e beh certo. Dunque è sempre in da palazzo, e fa bene, intanto cosa fai? Quando si è a casa si dedica a quello e si diverte anche, oltretutto. E fa opere di bene, di bene ho detto, senza fraintendere. Così è, Fra. Tornando all'antenna che stavamo parlando poc'anzi con la tua, poi per il resto non lo so. Ripeto, io ce l'ho smontata la mia, l'antenna, lo stilo centrale mi stava dicendo che scorre, dunque quello è intatto, sì che ce l'hai tutta la lunghezza, ha fatto il discorso che non riesce a smontare questi 5 metri, ma poi al limite se serve, se proprio non ce la fai, puoi anche tentare di tagliare, magari sostituire in qualche maniera la parte mancante come misura metrica. Tagliare dove la tagli, perché sono gli innesti proprio, quelli che ti servono poi sono gli innesti, perché come si chiama? È lavorato l'alluminio, no? Penso che siano tutti uguali, le Mantova 1. Il tubo c'ha le trattature dove poi ci innesti la parte superiore. E più che se taglio lì poi non coincide più nulla. quindi man mano che vada cercherò di portare se, sui 5 metri, la mia macchina è 5 metri, quindi potrei anche portarla, Vai, le faccio sporgere un po' a parte posteriore, davanti al filo di macchina. Sempre che non balli tanto, Sì, solo l'ultimo pezzettino dove c'era attaccato il ragnetto, quello è diventato telescopico, che io invece me lo ricordavo fisso, quel pezzo lì, puntonato. Sicuramente si è un po', come si dice, consumata la puntonatura ed è diventata scorrevole. Lì poi ci vuole la misura giusta per ribloccarla. Poi gli metto una fascetta, gli taglio l'alluminio e gli metto una fascetta come le altre giunture, dai. Eh beh sì, certo, quello bisogna fare così. Sì, è vero, infatti era puntonata, anche la mia è andata a Matabatumbo, è puntonata quella, la parte finale, sì, hai ragione, è vero. Però se la tua scorre, evidentemente adesso la puntonatura è saltata e allora scorre la punta del radiale, dello stilo. Sì, quello sì, non è un problema, ma io... Cioè, diciamo, tu hai detto come ha fatto Graziano. Graziano l'ha risolto in quella maniera, non gli hanno fregato niente di averla un pochino più corta, e ho visto che funziona lo stesso. Lui dice che le stazionarie sono a posto, tutto in ordine, forse renderà leggermente di meno, però l'ha recuperata in qualche maniera, perché dice che in nessuna maniera era riuscito a smontarla. E allora ha tagliato e ha preso quei 10 centimetri che sono innestati uno dentro l'altro. Si tratta di perdere, ecco, vedi, se hai possibilità di allungare lo stilo centrale, allora questi 10 cm si potrebbero anche recuperare, perché intanto fanno parte sempre della lunghezza fisica dell'antenna, anche quei 10 cm che ti mancherebbero, perché poi li dovrai rinnessare, è ovvio, no? È ovvio che li dovrai rinnessare, a meno che non riesci a trovare un pezzo di tubo che possa ovviare al taglio che fai, innestandolo come master, sia la parte più bassa che la parte più alta. Allora è diverso il discorso, è con la doppia fascetta, chiaramente. Insomma, diciamo che in qualche maniera se uno si impegna già la puoi recuperare, dai. Sì, lui che doveva andare a tagliare, perché ripeto, dove c'è la trottatura, dove è netta, lì non si può tagliare, perché poi non ho più la parte, diciamo, trottata, se taglio lì. Lui che è tagliare la metà dell'elemento e poi inserirgli all'interno un'anima sempre in alluminio e facettarla o ribettarla, non lo so. Forse è meglio la fascetta, dai, i buchi meglio non farne. Solo così, trovandolo del calibro giusto, o esterno o interno, si potrebbe così ricongiungere. Beh sì, appunto, prima bisognerebbe vedere cosa si trova per poter fare l'anima per dinnesso, dai, tagliarla come hai detto tu, così la puoi anche trasportare tranquillamente. Ma mi stai dicendo, se la tua macchina è così abbastanza lunga, allora la puoi trasportare, magari te la porti di notte, così, cercando di passare lì nelle strade di Predanieda, anziché entrare sulla 131, insomma, in qualche maniera, al massimo gli ultimi metri, diciamo, esci da dietro dove c'è Eurospin, esci da lì, praticamente il pezzo poi più evidente è davanti al cimitero, lì per arrivare a casa e basta. Poi per il resto alla notte nelle strade periferiche dei punti già c'è tutto un modo di farlo, non c'è problema. Puoi fare anche così, sempre che ci sia il contatto perfetto. Però in questi 5 metri dovresti provarlo col test, se il contatto è perfetto, perché se poi l'ossido ti frega anche il contatto fra gli elementi, allora il discorso è ancora più difficile. No, la controllo se col test, come dici tu, se no gli faccio o dei forellini piccolini e la rivetto, diciamo, per non debolirla molto, no? Rivettata con dei rivetti piccolini, così lì, o delle viti e delle vettine, sempre che non creino poi problemi al vento, col vento. Beh, una volta che è rivettata dovrebbe reggere, ripeto, glielo metti doppio, glielo metti uno all'altezza del taglio più o meno, un paio di centimetri, l'altro a tutta la lunghezza che poi ci sarà l'anima dentro, e dunque non si muove. E poi nastrata bene con l'autorestringente, con l'altro autorestringente, che quello sigilla proprio, sigilla in una maniera impressionante, che se un domani vuoi toglierlo devi tagliare proprio con un cutter o qualcosa del genere per poterlo togliere, perché se no non ci riesci nella maniera più assoluta, perché diventa un unico corpo, no? Già lo sai, non c'è bisogno che te lo insegni io. E infatti si chiama autoagglomerante per quello, che diventa tutto un blocco. Appunto, perciò quello è fattibile. Si può fare anche così. A male estremi, estremi rimedi, no, in qualche maniera si deve fare. Dall'uomo non sfugge niente, basta lavorare con un po' di cognizione di causa, giustamente già sei in grado di farlo, per cui non hai bisogno di nessuno, del consiglio di nessuno. No, per la prima volta posso provare, cioè riportare il piantone lì alle punte, la provo lì dal mio suocero, magari riporto un apparecchio, no, lo collego la macchina vicino al palo lì, dove c'è il garage, che ci sono dei pali subinucenti, la collego lì e si può provare, vedere un po' come rende. Anche così, certo, e fai la prova sul posto prima di muoverla, questa è la parte restante dello stilo, certo, va bene anche così, se hai quella possibilità non c'è problema, la provi lì e vedi se l'antenna risuona, se risuona alla perfezione hai risolto il problema, infatti hai risolto il problema, perché poi per il fatto del trasporto, ripeto, hai quella possibilità con una macchina abbastanza lunga, te la carichi sopra la notte e cerchi di passare non osservato, per cui va bene così. Fra, mi fa ricordare quando ci raccontava il nostro vecchio caro Diaboli, che quando dice una volta scendo a Cagliari con questa antenna lunghissima, con la macchina, c'era allora il BMW, l'hanno fermata, dice, al posto di blocco, e quando era veloce, dice, l'antenna si è piegata in avanti e ha preso il cappello, dice, del carabiniere, e questo cappello è rimasto a girare intorno all'antenna. Sono quello, qualcuno è andato anche con l'antenna sulla capota a usilo, e poi rientrando con l'antenna, con lo stilo tirato su, ha toccato il fine dietro, ti puoi immaginare, nell'impianto stradale. Ma che antenna ci ha messo? Un amato, cosa ha messo? Ma non lo so che tipo di antenna era, è riuscito a toccare il cavo elettrico, fortunatamente ha toccato, era una corrente normale, una 220, per cui non è successo niente. Tu immagini se fosse stata alta tensione, l'avrebbe bruciato dentro la macchina. Ma sicuramente sono storie che raccontavano così, giusto per ridere, dai. Come quella del cappello, del carabiniere, più o meno mi sembrano di quelle. Non lo so se sono discorsi fantasiosi che hanno tirato fuori o meno, questo non lo so, però il fatto sta che l'hanno raccontato e adesso io te lo sto raccontando a te. Vabbè, diciamo che erano altri tempi, dai, eravamo, io mi ci metto anch'io, senza, generalizzando con tutti e senza offendere nessuno, eravamo un po' più scelerati di adesso. Vero, Fra? E diciamo, la fantasia non ci è mai mancata, quindi ce ne raccontavano di tutti i colori, anche per passare un po' il tempo, quello sì. Vabbè, con la macchina già si facevano, quando ancora eravamo pilati, che non c'era la possibilità di avere la concessione cosiddetta, che è venuta poi nel 73, è uscita la legge, nel 74 abbiamo avuto la possibilità di metterci in regola, ma già nel 72, quando ho iniziato io, l'antenna dell'autoradio l'avevo allungata con un altro pezzo di tubo sempre dell'antenna, all'altro avevo quell'antenna elettrica, e allora si usava molto l'antenna elettrica nella radio, no? Si allungava, diventava lunga, e per sopperire a quello che mancava riguardante all'antenna della 27 ci avevo messo un altro pezzo di tubo indossato così, e all'occorrenza serviva, inserivo e tiravo sull'antenna poi elettricamente. Abbiamo fatto un po' tutti, dai. Sì, qualcuno usava anche quelle, ti ricordi quelle vetroregina, quelle antenne lunghissime, che poi le piegavi, che c'aveva anche il gancetto, la graffetta per tenerla piegata. Lì si facevano una specie di avvolgimento, una bobina, no? A misura, e usavano anche quella, mi ricordo. Sì, beh, si sono utilizzati diversi sistemi, ognuno si arrangiava in qualche maniera. Oh, più di un baracchino è saltato anche, perché erano fatti dei lavori fatti così un po' alla carlona, per cui non è che erano sempre fatti in maniera ideale. Naturalmente non erano performanti al 100% al riguardo di stazionari, eccetera. Chi se ne fregava? Facevamo e basta, no? Niente di particolare. Però era così. Ma allora io mi ricordo in quel periodo avevo l'autoradio che aveva il baracchino dentro il contenuto, no? Praticamente avevo la radio e anche il baracchino in un unico corpo. L'autoradio era in pratica, se ricordo bene, era Vox, mi sembra, boh, non me lo ricordo più. Ma per dire, no, il primissimo periodo, quante lotte. E quindi non hai neanche dovuto modificare niente per l'antenna, praticamente lo stesso attacco della radio andava a finire con un'unica antenna, facevi tutti e due, dai. Sì, sì, sì, l'avevo solo inserito un altro pezzo per allungarla ancora di più, l'ausilio dell'antenna. Un altro pezzo di un'antenna vecchia, stesso, no? L'avevo recuperato, mi ricordo, l'avevo recuperato. Un meccanico, un amico meccanico, che lui l'aveva cambiata l'antenna e c'aveva questa vecchia, mi ha dato quella e io l'ho inserita, è stato così, no, proprio contatto a tu per tu, stilo con stilo, niente di particolare, poi senza curarmi più di tanto, ma intanto cosa facevo? La usavo in quel momento e poi la abbassavo e la dovevo togliere di nuovo il pezzo che avevo innestato, capito? Beh, sicuramente in quel periodo ci doveva essere un'antenna proprio specifica per quella radio lì, perché se è stata fatta, come dici tu, diciamo polivalente, sia radio che apparato CB, sicuramente avevano inventato anche l'antenna per quell'apparato. No, questo non te lo so dire, può darsi anche, però l'antenna era normale, perché prima avevo l'autoradio normale e poi che ho cambiato autoradio e c'era entro contenuto anche la 27 in questo autoradio, per cui aveva necessità di fare da lungo per poter arrivare alla risonanza specifica della 27. Io l'avevo fatto, lo strumentino da macchina, quelli piccolini, mi segnava buono, mi segnava non più di tanto, non so quanto fosse attendibile anche il valore che mi dava con lo strumentino, cioè il rosmetro, però l'ho fatto, è andata bene, non l'ho mai bruciato, insomma, ecco. Perché dietro al PL non ne avevi tu, avevi solo l'attacco dell'antenna comune di un autoradio. No, cioè, ho fatto una specie di collegamento parallelo, no? Ci ho messo quello, perché nella tua radio c'era anche l'ingresso dell'antenna appunto del baracchino. Ah, allora sì, allora ho capito. No, allora non c'era un'antenna particolare. Dovevi mettere per forza un'altra antenna, no? Per l'apparato, volendo. Tu hai fatto invece un unico collegamento. Sì, perché dovevi passare inosservato, era abusivo, eravamo tutti pirati, e guai, se tu, infatti la montavo la sera, la notte, e mi ricordo con la buonanima di Torre, una volta siamo andati lì in piazza del Ventramento, dietro il primo Uppi vecchio, dai, come si chiama, che via è, non mi ricordo mai che via è quella, e perché c'era un portantista, siamo andati a cercarlo, ed eravamo di notte, dunque abbiamo inserito questo tubo per allungare l'antenna, poi magari c'era qualcuno che ce l'aveva perfetta, e c'ero io, Tore, Aldo, se mi ricordo bene, il cognato, il Tone, insomma eravamo tre o cinque eravamo, per trovare questa persona che faceva il portantista. Invece lui ci vedeva quando siamo arrivati lì nella piazzetta, nel parcheggio, e noi non abbiamo mai visto chi era, chi non era, boh. Ma è beccato. Tore, chi era Tore? Aveva un nominativo? Sì, Tore Rai, aspetta com'era, alla verde, Tore alla verde. Sì, no, il cognome non mi ricordava nulla, alla verde forse mi ricorda qualcosa, ma non più di tanto, sicuramente tu parli di tanti anni fa. Sì, sto parlando del 72, una cosa così, ti puoi immaginare, io sono entrato in frequenza nel febbraio del 72, praticamente... fate il conto, 49 anni adesso a febbraio, eravamo tutti pirati, perché allora concessioni non ce n'era assolutamente. E poi c'era anche un po' di paura, perché il baracchino doveva essere denunciato anche in questura, oltretutto, oltre ad avere la concessione dalle poste di Cagliari, era anche da denunciare in questura, dunque stavamo attenti, capito? E allora facevamo questi giochetti qua. No, in quegli anni io avevo forse portato le tre canali della Inuit, quartzato, anzi avevo comprato, aveva solo un canale, poi avevo comprato i quarzi, adesso mi ricordo se c'era, usciva col 5, no, forse col 23, e avevo preso l'11 e il 5 mi sembra, avevo quartzato io, avevo l'antenna telescopica lunghissima. E poi mi ricordo che avevo fatto anche l'attacco per l'antenna esterna, avevo messo un PL, femmina, dai, attacco PL. Sì, certo, sì, tante cose si facevano allora in quei tempi, cose che non abbiamo combinato, esperimenti se ne facevano, l'esperienza ce n'era poca a riguardo, per cui abbiamo fatto, tante volte tanta gente l'ha anche bruciato il baracchino, però poi magari se lo ricomprava oppure lo riparava. Allora mi ricordo c'era Panzer, c'era lì via Galileo Galilei, mi sembra, sì, insomma lo attraversa lì di via Napoli, dai. E lui era uno di quelli che lo riparava, era un bravo tecnico della ricetrasmissione, oppure da Beta Verde lì in via San Francesco, oppure quell'altro che c'era in via Principessa Maria, nell'angolo opposto dove c'era Costantino Fara, era buon'anima, è morto, anche Panzer tra l'altro è morto tantissimi anni, era un rivenditore di baracchini, insomma, ne aveva una marea, era il più fornito a Sassari, e nell'angolo opposto, che praticamente è angolo via Porcellana, se ricordo bene, quella zona, via Principessa Maria, angolo via Porcellana dovrebbe essere, e nell'angolo opposto a Costantino Fara c'era quest'altro radiotecnico che riparava appunto lui i baracchini. E dunque la gente quando bruciava ci rivolgevamo a loro, no? Sì, no, quello di San Francesco me lo ricordo, ne avevo portato un portatile a aggiustare, mi ricordo un Dynacom 40, un Lafayette se non sbaglio, poi ha chiuso e quindi ho perso anche quello, non so più che fine abbia fatto e chissà che fine avrà fatto quel portatile lì. Mi dispiace perché era un bel mattone, una bella bestia. Ok, sì, quella era Beta Verde, lui lavorava quasi esclusivamente, sì, faceva anche TV, qualche televisore, riparava qualche radio, stereo, eccetera, però il suo lavoro principale era proprio la radiotrasmissione, infatti si interessava molto dei punti radio, eccetera. Beta Verde era bravo, era un uomo di una certa età, sia ben chiaro anche, però era bravo, cioè come operaio tecnico era bravo, ma anche Panzer lo stesso era bravissimo. Quel Panzer era cagliaritano, era Sassari, però era di Cagliari, e anche lui purtroppo, per quanto ho saputo, si era ammalato e purtroppo era deceduto, giovane tra l'altro, molto giovane, vabbè, è andata così, la vita è crudele, no? Già lo sappiamo. Sì, purtroppo è così. Sì, che non mi ricordo io, vabbè, a parte forse li avevo presi, può essere la Cineradio, qualche cosa, avevo preso la Cineradio, qualche apparato. Questi qua, i Samurai e il Galaxy, mi ricordo li ho presi lì, così, Viale Mameli, da Angolo Viale Trento, da Notari, da Mario M2, se non sbaglio. Invece non so se l'altro, il Pazio 2030, forse quello avevo preso, può essere da Kuai, che c'è lì a Sassari Vecchio vicino al mercato, che c'è quel ragazzo che gli manca un po' la manina, c'è una manina piccolina. Sì, che adesso il negozio è in via al Rosello, adesso è più o meno in via al Rosello dopo il tabacchino, dai. Sì, sì, e ancora quello qualcosa ha di baracchino, perché ho visto che in vetrina c'è uno, se ricordo bene, un 790 Midland, qualcosa del genere, adesso non ricordo con precisione, ma c'è sempre esposto, ma ce l'ha anni esposto lì. Sì, sì, l'ho conosciuto, ma io ho conosciuto anche molto bene il padre, Quiet, il padre era radiotecnico, infatti, sì, cioè faceva il radiotecnico, riparava TV, eccetera. Se poi facesse anche lavori per i baracchini, questo non te lo so dire, però per la TV, senz'altro, Quiet, quando era dietro l'edicola davanti al mercato, sì, sì, adesso, da tanti anni si è trasferito lì in via al Rosello, cioè si era trasferito già il padre, e poi il padre purtroppo se n'è andato e chiaramente il negozio lo ha ereditato lui, sì sì sì, lo conosco quel giovane, che poi non è tanto giovane, anche lui ha una certa età. Vabbè, tempi passati io tante cose si possono raccontare, ma a rivangare tutto non è possibile, anche perché tante volte la memoria incomincia a diventare corta. Sì, però ci divertivamo facendo, smontando, modificando, passando da batteria a 12 volt con l'alimentatore, tutte queste modifiche qua, perché le batterie costavano, quindi bisognava arrangiarsi, trovare qualche alimentatore, qualche trasformatore per collegarli, noi l'abbiamo fatto. Da... I quarzi soprattutto, quanti quarzi abbiamo comprato, non solo io, ma un po' tutti, proprio per sfuggire, perché allora sai c'era una baraonda di persone su tutti i canali, su tutti i 23 canali, per cui allora si cercava di sfuggire, andare anche sui canali alti, soprattutto sul canale 45, allora andavamo lì alla GBC a comprare il quarzo e sostituirlo per andare sui canali più alti e montandolo sul canale, sul baracchino a 23 canali. Io mi ricordo allora, soprattutto in quel periodo, il Puni da base, quello con l'orologio eccetera, che poi a me mi era saltato in mente, ma avevo fatto arrivare un VFO della Elt Elettronica, me lo ricordo ancora, la ditta che me l'aveva mandato, e l'avevo collegato al transistor oscillatore del Pony, e con quel VFO andavo a sintonia continua su tutti i canali che c'erano della 27 e soprattutto su tutte le radio del mondo, la notte specialmente, sentivo il radio Giappone, radio russa, radio americana, dappertutto, era una cosa fenomenale, era poi quel baracchino l'avevo dato a Rosa Verde, l'avevo dato, e dopo anni Rosa Verde l'ha venduto a un amico che ce l'ha ancora, solo che ce l'ha ed è senza l'orologio, però, perché Rosa Verde l'aveva smantellato l'orologio, quindi quando si ubriacava era tremendo. Sarebbe stato bello, se sarebbe ritornato nelle tue mani, così. Beh, se volevo lo potevo avere, certo, però no, ma allora non c'era più il VFO, il VFO non c'era più quando è stato dato a questo amico, che ce l'ha ancora oggi, però lo usa solo per ascoltare e non entra mai, anzi diciamo che ne ha anche due di baracchini, uno gliel'avevo dato io, un veicolare, e l'altro era proprio di rosa verde, però ripeto, rosa verde l'aveva smantellato quello lì, quando beveva, conosceva più la bottiglia della birra che altre cose, però era un uomo intelligente, maledetto, era una persona che sapeva affrontare qualsiasi discorso e si intendeva un po' di tutto, si intendeva, solo che quando alla sera lui era peggio del fango. Mamma mia, come si suol dire. Comunque è una brava persona anche mio, guarda, veramente è una brava persona. Tu pensa che io ho saputo e so a chi anche, e questa persona grazie a Dio è ancora vivo e vegeto, aveva dato un prestito una volta di 2 milioni, Rosa Verde ha dato un prestito a questa persona di 2 milioni in lire senza nessun documento. E io ero testimone e so benissimo a chi l'ha dato, però non ho mai detto perché non so cose da dire, ci mancherebbe altro. Beh, l'importante è che l'abbia restituito, dai. Sì. L'ha restituito dopo sei mesi, cioè gli accordi erano quelli. Io dice, io te lo do, però entro sei mesi me li devi restituire. Questa persona aveva necessità, ha usufruito del buon cuore del Rosa Verde, e nel cielo ci sia anche lui, perché anche lui è morto, e devo dire